Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera aggiungiamo un capitolo alla nostra campagna esplorativa sul decreto legislativo di recepimento di questa direttiva europea, la 29/2009, che insomma modifica profondamente tutto il quadro regolatorio degli incentivi per quanto riguarda le rinnovabili, e secondo il quale il 2013 potrebbe essere una sorta così di anno zero per i biocarburanti. Infatti questa direttiva prevede che dal 2013 intanto continuerà ad aumentare la quota obbligatoria di biocarburanti anno per anno, e dovranno anche essere sostenibili. Quindi si tratta di un passaggio fondamentale per tutta l'industria dei combustibili provenienti dalle biomasse. Quindi dobbiamo ricordare che parliamo di bioetanolo e biodiesel, che sono quelli relativi alla trazione, ma anche di biogas, che può essere utilizzato a questo scopo. Quindi di un comparto vasto, largamente interconnesso con l'agricoltura. Ne parliamo con la dottoressa Maria Rosaria Di Somma, che è direttore generale di Assocostieri, l'Unione Produttori di Biocarburanti. Buonasera Di Somma. Buonasera. Allora, insomma, quindi l'Unione Biocarburanti intanto chi rappresenta, molto velocemente? Sì, rappresenta tutti i produttori di biodiesel e di biocanole che oggi hanno gli impianti in Italia. È sì. Un'associazione aderente a Confindustria che, come lei ben diceva, è un momento di grande sviluppo. Ecco, quali sono, cominciamo da qui, i più importanti cambiamenti che introduce nel quadro italiano questa direttiva europea con il recepimento da parte del governo? Guardi, lei in effetti l'ha anche già accennato. Innanzitutto non si parlerà più di biodiesel, ma si parlerà anche di bioetanolo, di biometano, quindi c'è l'allargamento di biocarburanti che dovranno contribuire al miglioramento ambientale, alla riduzione del gas effetto serra, ma soprattutto la vera grande innovazione, proprio il cuore di questo provvedimento, è che i biocarburanti intesi in queste tre fattispecie dovranno rispettare i criteri di sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, ma l'ancora più importante, sostenibilità etico-sociale. Ecco, d'accordo. Tanto per, come dire, dare qualche indicazione, mi pare che oggi, che già esistono delle quote comunque di biocarburanti che bisogna miscelare con i carburanti tradizionali di origine fossile, però ecco, in Italia è tutto biodiesel quello che viene utilizzato. Sul bioetanolo siamo molto indietro, credo che sul gas siamo praticamente a zero per quanto riguarda quello di origine agricola. In effetti è così. Oggi l'obbligo, che si attesta sul 4%, è quasi coperto, levando il quasi completamente dal biodiesel, per un fatto proprio di scelta del petroliere, mentre invece proprio la direttiva, nell'incrementare questo percentuale di obbligo, farà necessariamente esplodere e nascere anche il ricorso al bioetanolo e al biometano. Ecco, lei ritiene che siamo in grado di produrci questo bioetanolo e questo metano in casa, o dobbiamo andare a comprarcelo all'estero? Guardi, come accade per il biodiesel, per intendersi, almeno in certe quantità. L'Italia sotto questo profilo è quasi un paese fortunato, perché ha un grosso potenziale di produzione sia in effetti di biodiesel sia di biometano, e molte iniziative sono in corso per sviluppare il biometano, che è proprio la fonte naturale dell'agricoltura. Quindi ci sarà questo stimolo. È chiaro che sarà molto importante come questo provvedimento di recepimento della direttiva sulle fonti rinnovabili andrà a regolamentare questi settori, che hanno bisogno anche di spinta, non tanto di agevolazioni fiscali, ma proprio di spinta allo sviluppo. Lei proprio dice incentivi allo sviluppo ci vogliono. Perfetto. Ecco. A questo proposito, come dire, il decreto legislativo che è in corso di elaborazione però è abbastanza vago, o sbaglio? Cioè definisce bene dei principi, però poi per passare da lì, come dire, ai numeri, a qual è l'entità degli incentivi, quali sono le norme tecniche a cui devono rispondere? Guardi, il provvedimento sicuramente è un grande provvedimento strategico che risponde a quello che è la ratio, quello che sono proprio gli obiettivi e gli obblighi della direttiva. Purtroppo è quello che, di cui sente la mancanza l'industriale, che deve invece investire, che deve invece organizzare la propria gestione, c'è purtroppo un eccessivo rinvio ad una decretazione secondaria, regolamentare. Quindi si capisce che questo governo, il Ministero dello Sviluppo Economico in particolare, per la prima volta affianca i biocarburanti alle altre fonti rinnovabili, quali il fotovoltaico, l'eolico, però c'è ancora un vuoto, è un contenitore che ancora ha bisogno di riempirsi proprio di quegli elementi che necessitano con la massima urgenza agli imprenditori per rispettare quella data che lei per diceva. Per potersi anche attrezzare, essere pronti, insomma, dal punto di vista anche industriale. Senta, a meno che non vogliamo metterci a importare biomassa, c'è il problema di riuscire a coniugare le coltivazioni energetiche con quelle alimentari e non solo. Per esempio, un vasto settore del comparto, quelli che fanno mobili, insomma, è in crisi perché la materia prima, cioè il truciolato di legno, è schizzato su di prezzo da quando è conteso, per esempio, dagli impianti termoelettrici a biomassa. Ecco, non è che succede la stessa cosa con i pomodori, con le verdure, non lo so. Ma guardi, questa nuova direttiva dovrebbe proprio cercare di risolvere questo grosso problema. Per molto tempo si è parlato di biocarburanti che andavano in conflitto con il settore alimentare, perché alla fine è lo stesso olio che va nell'alimentazione dal quale si produce biodiesel. Ecco, ma i terreni, ci sarà competizione per i terreni, perché quello è un dato fondamentale, se vanno sui prezzi dei terreni perché sono contesi. Si stanno anche cercando proprio di investire, di fare ricerche in materie prime che possono essere addirittura le alghe, oppure delle materie prime come il solco zuccherino o la liatrofa, che possono nascere in tante zone dove non c'è bisogno di eccessiva acqua e dove la resa della pianta è di gran lunga superiore a quella della pianta tradizionale. Grazie di somma. Grazie, buonasera, buonasera. Per stasera è tutto, rimaniamo però anche domani su questo tema della direttiva 28/2009 per parlarne con il rappresentante del governo, Stefano Saglia. A domani.